E penso che il professor Quacquarelli non abbia bisogno di lunga presentazione, è professore a Bari, come sapete, ed è Roma. A Bari era e a Roma attualmente, ma io lo conosco soprattutto per il suo merito di aver favorito la conoscenza dei padri della Chiesa in Italia. Ci sarà un'era ante Quacquarelli e un'era post Quacquarelli che veramente si differenziano. Noi saremo ancora molto indietro, ecco, nella conoscenza di questo settore, mentre ciò che Quacquarelli ha fatto e sta facendo in questo campo veramente va a grande vantaggio di tutti. Nel nostro istituto è amico di casa, non da oggi. Ho accennato prima alla sua partecipazione nell'84 al convegno sui martiri della Valle di Non. Potete vedere nel volume che oggi è uscito, no, il suo contributo proprio su Gregorio di Nazianzo e Paolino di Pella, tra biografia e autobiografia, testimonianza ennesima della sua presenza e della sua collaborazione nel nostro istituto, della quale gli siamo molto grati. A lui la parola immediatamente, con tante grazie. Grazie, signore. E sono sempre lieto quando sono a Trento in mezzo a voi, per molti ragionati motivi. È il motivo principale che c'è una promozione vera degli studi, senza piaggeria, si vuole andare avanti, si vogliono conoscere le cose. Quindi grazie tante, tante, tante. Il titolo nostro è Morte, Vita Eterna, nell'epitafio di Gregorio Nazianzeno. È inutile ripetere ancora quanto scrissi su epigramma ed epitafio, una ricerca sulla reazione pagana e la trasformazione della cultura tra IV e V secoli. Per Gregorio Nazianzeno vorrei riferirmi all'epitafio ideale dell'iscrizione marmorea in versi del genere commemorativo. Questo genere gli è proprio perché riesce in forma mirabile a sciogliere in poesia i sentimenti e le riflessioni momentanee. Gregorio si considera già morto al mondo per il disinteresse che mostra verso tutto ciò che lo circonda. Per lui il peccato porta alla morte spirituale, mentre la morte al mondo induce all'ascesi. Chi genera nell'anima le passioni del vizio spinge alla violenza e, dilettandosi del peccato, si procura la morte. Chi invece guarda Dio con purezza di sentimenti odia la violenza e, lontano dal tumulto, sfiora appena la terra per seguire la via solitaria del Cristo. È la scelta che ha la vita spirituale altrove. Nazianzeno vive e soffre la sua ascesi e ne diventa il poeta. Si attende ancora l'edizione critica completa degli Epitaffi, una delle opere poetiche più importanti di Nazianzeno. Dopo l'edizio Principes Amoratori, fatta nel 1709 e ripresa nel Migne, si è avuta quella fatta dal Balzo. Il Nazianzeno va ritoccato per molte cose. Il Nazianzeno ritrae stati d'animo che vivono la morte nella realtà cristiana. Bisogna per questo confrontarla con uno studio ben documentato dello Janssen. È stato il motivo proprio di questa mia ricerca. Lo Janssen è un, diciamo, epigrafista, allievo di padre Ferrua, e ha un lavoro studiato da molto tempo da lui, che sarebbe Vita e morte del cristiano negli epitaffi di Roma anteriori al secolo VII. Questo che mi diede lo spunto, diciamo, bisogna un po' vedere quali sono gli elementi comuni tra l'uno e gli altri. Fu lo spunto che mi diede, allora gli epitafi non mi hanno mai lasciato. lasciato. Stretto è il rapporto della vita terrena e il mondo celeste. Ciò che conta è la fede praticata dalle opere. Il tema del merito ricorre in tutti gli epitafi. Dopo la morte l'anima santa imbocca la via del cielo e non ha nulla da temere perché Dio stesso ne sarà il difensore. In questo senso sono da intendere tutte le preghiere. C'è l'avvertimento a non manomettere il sepolcro. La mano che tenterà di violarlo avrà Dio come giudice. E l'argomento del giorno di quel del periodo, tra il periodo classico e il periodo cristiano, la manomissione dei sepolcri era quotidiana, anche oggi. E ci stanno anche le invettive contro questi ladri, ladri particolari. Un mio allievo ha fatto proprio una raccolta di questi studi della manomissione e quindi delle imprecazioni contro. C'è una sorta di convinzione che i corpi conservano l'impronta dell'anima. Inoltre si ricorda la retribuzione dei martiri e il loro speciale spazio celeste. Gli epitaffi dello Jansen riguardano il popolo dei fedeli di Roma in genere. Quelli invece della Zanzina concernono parenti, amici, uomini di dottrina e santi, ormai grande patrimonio della storia e della cultura patristica. Lo spazio di tempo considerato da Zanzino occupa circa il IV secolo, mentre lo Jansen si estende sino al VII. Jansen è uno studioso attento, cattedratico alla Pontificia Università Gregoriana e allievo, come avevo detto, di padre Antonio Ferrua, che tanto ha dato alle ricerche per la conoscenza dell'epigrafia cristiana antica. In Zanzino è il padre della Chiesa che rigenera l'epitaffio nella poesia e la morte diventa per lui motivo di riflessione per la sua ascesa. Ne va dimenticato che Ino Zanzino è un grande teologo, è un grande poeta, che talvolta raggiunge le più alte vette della teologia e della poesia. Non lo si conosce ancora dal punto di vista poetico e dal punto di vista, l'ha detto il padre Spitrich, e padre Spitrich ha illuminato, ma bisogna fare ancora degli altri studi perché sia messa in luce. Siccome c'è ancora il retaggio del mondo classico pagano, non è considerato ancora come poeta, come dovrebbe essere. Ma noi facciamo gli auguri e vedo che qui c'è sempre una bella spinta verso Gregorio Zanzino, che un giorno si possa capire di più. È la teologia e la poesia di Gregorio Zanzino. Bisogna eliminare quegli elementi entropici che ci sono, ne parlavamo ieri con padre Spitrich in treno, abbiamo fatto un bel viaggio assieme, siamo vecchi amici, e abbiamo parlato proprio di queste cose, che oggi il razionalismo ha offuscato ogni possibilità di recupero e noi dobbiamo cercare di togliere questa cattiva erba che è attorno e per poter respirare, per far respirare altra aria ai nostri autori. Sì, è un modo di dire oggi che si studia la patristica, è un modo di dire, sì, una moda, però mancano le condizioni per poter capire i padri e manca la spinta a volerli capire. È una nota dolorante. Gli epitaffi dei marmi paleocristiani e l'epitaffio dell'Anzanzino hanno molti denominatori comuni, che passano per il dolore umano e la speranza celeste e attraverso il Cristo. L'epitaffio più lungo, perché a più riprese, come se non si volesse staccare dal ricordo e dal tenero affetto, è per la madre di nome nonna. Essa aveva una grande fede che ognuno testimoniava nella gioia e nel dolore. Sempre coerente, non si era mai allontanata dalla Chiesa e sulla sua bocca non correvano mai discorsi profani. Si sentiva al servizio della croce. Ogni cosa sopportò coraggiosamente sulla terra e in Chiesa, infatti, mentre pregava, morì. Comportandosi come Sara, del diletto sposo Gregorio fece un cristiano e poi un sacerdote, e come Anna che diede alla Chiesa un pio servo in Samuele e l'altra Anna che trasmise nel grembo il grande Cristo, ebbe di entrambe la gloria. Essa eccella fra le pie donne, Susanna, Maria e le due Anne. Non attraversò il cammino della vita portatrice di Cristo e senza curarsi del mondo salì sul cocchio celeste. Sono immagini poetiche che troveremo sempre, ma che hanno bisogno di essere più, diciamo, capite. Ricordo quando la madre andava incontro ai figli che tornavano da paesi lontani. Nel cuore dei figli era rimasta ancora viva l'esclamazione di gioia della madre. In questi epitaffi ideali, come se fossero stati scritti di botto, uno di seguito all'altro, il poeta ritrae scene commoventi che strappano le lacrime. Come il figlio ha grande nostalgia della madre, così la madre, pur salita sul cocchio celeste, non può dimenticare il figlio. Immagina quasi un dialogo. Tu hai sofferto molte pene, sembra che gli dica la madre, che sono scritte nel grande libro di Cristo. Tra queste pene pone le stesse cure per i genitori che ti accoglieranno nella grande luce celeste. Essa si distingueva superando ogni altro nelle opere di pietà e soprattutto nell'assistenza ai poveri. Nell'assiduità la preghiera era impareggiabile, edificando il prossimo, e per questo fu premiata. Mentre pregava, improvvisamente raggiunse la meta finale. Gregorio assimila la madre ai martiri e ad essi si rivolge. Accogliete la grande vittima, essendosi offerta con tutta la vita. Le membra di questa santa donna erano estenuate dalle pene, ma tenute in vita solo dalla preghiera, che confortandola le dava forza e coraggio. Il motivo dominante degli epitaffi con cui il poeta ha voluto esaltare la madre è la morte improvvisa che la coglie mentre sta pregando nel Tempio. È un richiamo continuo che segue uno sviluppo di immagini che sembrano incalzarsi senza mai ripetersi. Non germoglio sempreverde di una radice sacra, consorte del Vescovo Gregorio e madre di Pure Santa, giace qui. Pregando nel Tempio si è piegata alla legge della morte. Un nudo serrò la sua voce e Dio volle fermare la lingua che gli aveva sempre cantato inni. Infatti concluse nella preghiera una vita purissima e stupendo che la morte la colse nel Tempio accanto alle cose sacre. Come morì mia madre? Stava pregando e dalle sue labbra l'anima spiccò il volo verso Dio. Un angelo ti rapì lo spirito, lasciando nel Tempio il corpo. Ogni cosa avevi riposto nella fede ed anche questa, tu volando in cielo, lasciasti nel Tempio. Chi è morta come nonna presso l'altare avrebbe voluto giacere per sempre qui a testimoniare la perennità della sua fede. Certo, quando noi leggiamo un epitaffio del genere, noi subito, è retorica, sono parole, perché noi non abbiamo quella temperie spirituale che ci possa avvicinare ed esprimere molte idee l'una accanto all'altra che nascono dal profondo. Quando si legge il nostro Nazianzeno, come diceva Padre Spitrich, bisogna sempre pensare alle cose che gli vengono dal di dentro. Così lui costruisce la grande teologia. E il più grande teologo, diciamo gli antichi, o teologo, se era il suo epiteto. Allora bisogna, cioè, compenetrarsi e porsi sulla sua temperie spirituale, ma oggi non è facile. Perciò, allora, chi è abituato a una vita diversa, a immagini diverse, non le penetra queste espressioni, e allora, sì, vabbè, è un modo di dire, è retorica tanto per dire così. Ma dobbiamo avere molta più attenzione. C'è un altro epitaffio che ritrae nonna orante per l'ultima volta sulla terra, quando una voce diceva dall'alto, vieni, e fu sciolta nel corpo, mentre con una mano si teneva l'altare e con l'altra implorava, Cristo Re, sia a me propizio. Dagli epitaffi non è facile seguire la dottrina escatologica del Zenzino, molto complessa nelle sue sfumature. Il poeta di solito la trasfigura e mentre la trasfigura a noi la avvicina. La morte ha separato il figlio dalla madre e le virtù materne fanno sentire di più lo strappo. Morta la madre, il figlio ha perduto una parte di se stesso, ma il dolore non ha il sopravvento. L'animo della scelta gli ha aperto la visione delle vie che hanno condotto la nonna in cielo. L'epitaffio, quale iscrizione sepolcrale che immagina di scrivere, in breve dice, qui giace nonna, figlia di Filtazio, che morì pregando nella vecchiaia. Finisce con esclamazione, o calubiotoio, caeugaeos tanatoio. O vita grandiosa e morte santa. L'epitafio finale è quello che riepilogo alle esequie di nonna con le immagini della scelta. Dal tempio tutti dovete accompagnare nonno, la santa, e accompagnare la grande vecchia, mentre viene assunta in cielo. La scomparsa della madre sempre immerge il figlio nel dolore. E lo stesso accade anche per la dipartita del padre. E c'è una tradizione nell'epigrafia cristiana antica, negli epitaffi cristiani antichi. Papa Damaso, dopo la morte del padre, temeva di aver perso il gusto alla partecipazione della vita. Gregorio, con l'animo di poeta, intravede il dolore e continua il dialogo con i genitori deceduti. A ricordo della madre associa quello del padre. Immagino che ambedue parlassero a tutti i figli per benedirli e ringraziarli di ogni assistenza loro prestata sino alla fine. Ma in particolare sembra che si rivolgano a Gregorio come punto di riferimento per la gioventù, la cultura e la Chiesa e per il suo carattere forte. Le sue doti sono state il sostegno della loro canizia, proprio col discorso attribuito a un personaggio e creato secondo la personalità dello stesso, come appunto nello schema della prosopopea. Il Zenzino pone sulla bocca dei genitori parole commoventi. Non sono di superbia per esaltare le proprie qualità, ma di franchezza per i grandi travagli da lui subiti e che avevano angosciato il padre e la madre. È il punto comune della grande fede che unisce genitore e figlio e parlano lo stesso linguaggio. La scelta scorge nella sua anima i punti di concordia con gli altri. Gregorio riconosce gli sforzi fatti per portare la calma nelle tempeste delle lotte teologiche, gli urti e i contrasti del concilio di Costantinopoli e la serenità degli animi con l'affermazione dei principi che erano ancoraggio di dottrina nella fede battesimale. È un punto di grande importanza. Oggi i teologi sono tutti, parlano sempre di teologia, però di quella che è il periodo, o meglio, la forza della teologia battesimale, che fu quella dei primi secoli, è quella in cui cade tutta tutta la teologia dei cappadoci, non si parla, si vanno sempre per vie astratte e noi perdiamo il filo logico della teologia battesimale. C'è stato un bravo benedettino, padre Studer, che ha approfondito questa parte della teologia battesimale nel libro Dio Padre Salvatore nei padri della Chiesa. Il conforto dei genitori che lo seguivano con forte partecipazione era di grande incoraggiamento per il figlio Gregorio. Riposati, sembra che gli dicono, o figlio generoso, che hai posto i tuoi genitori accanto ai martiri, ti siano di ricompensa la grande benedizione di Dio e il dono di tanti figli spirituali. Per l'Oriente e l'Occidente era comune l'uso di offrire preghiere e sacrifici per i defunti. Gli epitafi di Gregorio possono contribuire alla conoscenza anche della liturgia del IV secolo. È una mia ipotesi di lavoro e potrebbe anche essere approfondita. Anche Anfiloco, fratello di nonna, era sceso nella tomba, sarebbe fratello della madre, mentre la sua anima era volata tra i beati. Molti meriti si era acquistato con l'esegesi biblica, spiegando in particolare i riflessi divini nell'umano. Era il conforto di tutti, per i parenti, gli uomini generosi e pii, e per i filosofi e i letterati. Era un oratore formidabile. Anfiloco ha testimoniato la sua fede con le opere ed ha lasciato, con l'esempio della sua vita, figli migliori del padre. Questo è l'epitafio che gli si addice, la grande creazione di Gregorio. Tutto hai lasciato con l'ultimo respiro. Ti è seguito solo la gloria che brilla per chi si alza in alto. Gregorio gli è assai grato per aver appreso a lui una grande lezione di dottrine di vita. Queste negli epitaffi hanno, diciamo così, hanno di rimarchevole. La fede sempre unita alla vita che ha dato sempre esempi eccellenti. Mai la vita avulsa da quella che è la sua dottrina, cioè testimonianza di vita. Lo favoriva il luogo stesso, nel senso che l'epitafio è sempre un mondo, presunto cimiteriale, ma era la sua passione, e la sua grande teologia. Quindi è una lezione che abbiamo di vita sempre dalla teologia di Gregorio Nazianzeno. La testa sempre, non per aria, ma sempre bene pensante, perché vuole convertire, vuole convincere della sua dottrina. Una gamma di epitaffi con genere Basilio Magno, ministro di Cristo e l'amico del cuore. Suo padre era stato un buon maestro di retorica e Basilio, in famiglia, ha preso i primi elementi che, radicatisi nel suo animo, ebbero una fiorente crescita. Rimasto orfano intorno al 343, frequentò le scuole di Cesarea, che aveva una forte rinomanza. Poi passò a Costantinopoli, che allora, 348-349, vantava rettori e filosofi di vaglia, tra i quali Libanio. Ma anche quando parla Gregorio a proposito di gente che sa parlare, eccetera, dobbiamo stare sempre attenti. Noi abbiamo la mente offuscata dagli elementi antropici, ma è che sempre la grande scuola dalla quale unito, mai scissa la parola dalla vita. E quindi è vero, retore chissà vivere e sa parlare. Come parla, così vive. Ma è un discorso troppo difficile per oggi, non per voi, per carità, che vi vedo tutti compresi, ma è per gli studi stessi. Sono scomparsi questi studi antichi, e allora è subentrata l'era, diciamo così, della confusione. Vedo con molto piacere che la linguistica generale si sta appropriando di molti elementi della retorica antica, e vedo anche molti studiosi che cercano, vedono che c'è nell'aria qualcosa che ci è sfuggita e che noi dobbiamo rincorrere. E Gregorio questo ci parla, di questo ci parla. La volontà di progredire negli studi lo portò ad Atene, ove strinse una grande amicizia con il Nazianzino e vi si fermò per 5 anni, incontrando pure Giuliano l'Apostolo. Il Nazianzino non potrà mai dimenticare Basilio e vorrebbe essere portato con lui nel coro dei beati. E quando la Trinità rapì il suo spirito, tutta la schiera celeste fu lieta del suo arrivo. Ma tutto il mondo, sebbene scosso da avverse dottrine, appartiene alla Trinità. Tu solo ad un tempo illuminasti la vita con la dottrina e la dottrina con la vita. Un solo Dio regna in cielo, un solo vescovo la nostra generazione vide nella persona di Basilio, nunzio del vero, occhio splendente per le bellezze dell'anima. A scandirlo ogni espressione e da capire, da entrare dentro proprio al cuore di Gregorio Nazianzeno e la sua cultura. Grande gloria del ponte dei Cappadoci, intercedi per il mondo con le tue preghiere. Nazianzeno, parlando con le immagini che passano attraverso gli epitafi stessi, induce talvolta i personaggi defunti a parlare. Gli abitanti di Cesarea qui vollero vescovo me, amico di Gregorio, che amai di cuore. Dio gli congeda ogni felicità e, tra l'altro, gli raggiunge presto la nostra vita di quassù. Cosa può giovare la permanenza sulla terra con la nostalgia dell'amicizia celeste? Basilio, la intelligenza e la cultura univa il senso pratico di meditata osservazione su fatti, uomini e cose. Il contatto avuto con le persone del suo tempo era intenso e non si deluiva mai. Mirava l'unità della Chiesa per lo spirito ecumenico che lo agitava, ma non era facile raggiungere lo scopo con i vescovi che si sentivano lontani l'uno dall'altro, come Eustazio e i suoi amici Teodoro di Nicopoli e Atalbio di Cesarea. Ostile ad ogni mania di novità, parla lo stesso linguaggio di Gregorio sulla fede. Per il Nazianzeno, sino a quando Basilio è rimasto sulla terra, si è dedicato con tutta l'anima a Cristo e sempre nella massima coerenza della parola con azione, divenendo un grande baluardo della verità, purtroppo ora divisa. L'epitafio è una forma che rivela la sua vocazione poetica, che affonda le radici nella dottrina della sua fede. Gregorio non può dimenticare Basilio, gli vengono alla mente i ricordi più lontani della loro amicizia. Atene e la comunanza di vita spirituale. Vuole gridare al mondo che Basilio è volato in cielo, mentre lui, Gregorio, è ancora a trascinare sulla terra le catene della vita. O Basilio, la tua parola è stata una scossa e la tua vita un baleno, e Cristo ha voluto unirti presto ai celesti. Conoscevi tutte le ascose meraviglie dello spirito, e quando permette la sapienza terrena. Eri un tempio vivente, non potendo elencare tutti i suoi meriti, ne nomina solo quello di aver guidato per 8 anni la chiesa di Cesarea. Gli epitafi di Nazianzeno sono un discorso continuo. Si avvicina il commiato e anche qui è l'epitafio a parlare. Ci hai lasciati, e questo è l'epitafio, pegno straziante della nostra amicizia. Nel contempo ci fa sapere che ha dedicato al cenno di Basilio 12 strofe. L'epitafio è il genere poetico che accompagna per l'età matura sino agli ultimi anni di vita terrena. Non erano di occasione, ma nascevano di getto nei momenti di sua particolare riflessione. Un ricordo tirava l'altro in un quadro molto ampio: genitori, parenti, amici. Ciò che più importa sono gli epitaffi che richiamano i suoi interessi di varia spiritualità. Non è da dimenticare che gli ideali monastici di Basilio avevano appassionato Innocenzino. Fratello di Basilio fu il monaco Nocrazio. Egli viveva nel suo monastero presso il fiume Iris nel Ponto. Da monaco che seguiva una certa ascesi, voleva col lavoro delle sue mani contribuire al sostentamento della vita della sua comunità, perché il lavoro come formazione dello spirito è una tesi che è quasi scomparsa. L'abbiamo cercato di mettere di riciclarla e ora notiamo che non ancora la mente umana, non che sia matura, non è arrivata ancora quella maturità di vedere nel lavoro, lavoro come lavoro, lavoro manuale, quella forza che forma lo spirito umano. E senza lavoro noi non abbiamo mai l'uomo completo. Questo è il discorso dei monaci e il discorso proprio anche di Basilio nel Petit Asceticon, come lo chiamava il nostro padre che è deceduto alcuni anni fa, Gribomon, benissimo. Ed è una lezione di vita ancora oggi per noi, che molte cose che oggi vanno a sbandare per la gioventù, perché manca il punto fermo del lavoro. La pesca era il lavoro che si era scelto. Un giorno, mentre stava pescando, la rete si impigliò in uno scoglio. Con molto accanimento cercava di liberarla, ma egli scivolò nel fiume e morì. L'epitaffio che Innocenzino scrisse per Nocrazio è tripartito, secondo le immagini che sviluppa. La rete non catturò i pesci, ma il pescatore, che nella breve vita trascorse in purezza ideale, incontrò morte e grazia. Il richiamo è all'acqua battesimale, che fu la sua rigenerazione, e all'acqua della morte, che è stata la sua fortuna celeste. Inoltre la sua morte induce alla riflessione sulla fragilità della nostra vita. I lacci della rete sono rapportati a quelli della vita e diventano come una liberazione. Intendiamoci, non si tratta di pessimismo, ma di qualche cosa che non riusciamo a cogliere rapidamente nella sua poesia. Le concezioni rese dalle immagini sono rapide, quasi come velate. Occorre coordinarle per leggerle. La sua mente è sempre rivolta al cielo e sogna il percorso per raggiungerlo. Il discorso non resta mai come mozzato, ma presenta tutti i presupposti della sua completezza. L'epitaffio che pure merita attenzione è quello per Emmelia. Essa fu la madre di Basilio Magno, di Nocrazio, di Gregorio di Nisa, di Pier di Sebastia, di un monaco di cui non si conosce il nome, cioè di 5 maschi e di altrettante femmine, tra cui Teosebia e Macrina. Li educò con grande amore e cura, applicando un'esegesi biblica pratica, incisiva per la vita quotidiana, 3 furono sacerdoti, illustri, e gli altri formavano una schiera di angeli. Gregorio era stupito per la, se lo proclama, pio sangue di Cristo. Questa è la sua radice. Era il premio della sua pietà, come pure l'onore dei figli, per i quali aveva avuto una grande tenerezza. In accenzino con l'epitaffio compone un mosaico le cui tesse sono di vario colore. In genere l'epigrafia non trascura le relazioni di parentele che sono di grande delicatezza. Una madre dice che il figlio defunto onorò i fratelli col consiglio e con la pietà. Il giovane Massimo fu un dolce amico per i fratelli. Trebusio dedica la tomba al fratello sempre dolcissimo e amatissimo. Lo Janzen ha dedicato molte pagine sul fedele defunto in relazione all'ambito della famiglia, della società e della Chiesa. In accenzino al fratello Cesario dedica una serie di epitafi. Cesario ad Alessandria, oltre a discipline di geometria e di astronomia, approfondì in particolare la medicina. Divenuto medico famoso, fu chiamato alla corte dell'imperatore Costanzo e vi rimase anche con Giuliano. L'imperatore Gioviano lo nominò questore della Bitinia, ove scampò al terremoto del 368 che distrusse completamente Nicea. Fu un avvenimento che lo gettò in una profonda crisi spirituale, risolta con la decisione di abbandonare il mondo e di darsi alla vita monastica. Erano vivi ancora i genitori quando Cesario morì, perciò una serie di considerazioni che rendono la poesia appassionata. I genitori, avvertendo di essere vicino a morire, vollero costruire la loro tomba, ma la tomba doveva purtroppo servire a Cesario, che era il più giovane della famiglia. In accenzino sembra rivolgersi al padre Gregorio per dirgli che gli era toccato un figlio superiore agli altri mortali per saggezza. La tomba sta a testimoniare la sua grandissima gloria. La morte di Cesario era contro natura per i genitori, Gregorio e nonno. Era un dolore che si aggiungeva agli altri che avevano sopportato ed essi pregano il figlio che li accolga al più presto. Nella nostra tomba es emeteron tumbon. L'epitafio si snuda attraverso nudi di tristezza. Che legge è questa? Tisnomos. Quale giustizia, o iadiche? Forse l'invidia volle così? A più riprese, Nazanzina parla della dottrina del fratello e delle varie scienze da lui coltivate che tuttavia non sono valse a salvarlo dalla morte. Fosti inviato come archiate alla reggia, ma dalla Bitinia ti abbiamo ricevuto cenere. Sotto i miei marmi, dice la tomba, giace Cesario, che brillò come un lampo sino ai confini della terra. Dobbiamo accelerare. L'unico bene che restava tra i mortali svanì. Da tutti onorato e vanto degli imperatori, Cesario scese nella tomba. Cesario è volato come rosa dalle spine e come rugiada dalle foglie. Nella parte finale l'epitafio, rivolgendosi ai martiri, li prega di ricevere tra le loro braccia il sangue di Gregorio e della grande nonna. Cesario è un fiore che la Cappadocia non più vedrà. Eufemio morì a 20 anni quando metteva la prima barba. Aveva studiato la poesia greca e latina e si era assai distinto come critico letterario e come poeta. Nazanzino, quando parla di retore, sottintende molte cose che vanno dalla filologia testuale alla critica storico-letteraria. Eufemio, cioè, era un filologo raffinato che sapeva gustare la poesia. Con il fratello Anfiloco, che aveva alte qualità pur eccellenti, i due costituivano gli astri della Cappadocia. Eufemio era vicino alle nozze ed invece una fanciulla ebbe una tomba. L'arte combinatoria del Nazanzino intreccia l'epitaffio della madre Livia con quello del figlio Eufemio. Anche Anfiloco, marito di Livia, alla morte della consorte, invece della bella moglie, saggia e buona, ha una misera tomba. La spenta una morte improvvisa nel fiore degli anni. Ora, ci sono alcuni epitaffi ai quali, diciamo così, dobbiamo dedicare maggiore attenzione perché Lanz non li attribuisce a Gregorio Nazianzeno, invece bisogna un po' più approfondire la situazione. E andiamo alla fine, se no il tempo è quello che è, ora annoio e dobbiamo pure finire. Gregorio Nazianzeno, 5 minuti abbiamo finito, è uno dei più nobili poeti dell'antichità cristiana. Sa unire la profonda convinzione della sua fede alla conoscenza della lingua greca in tutte le sue movenze. Adatta la parola all'immagine creando una unità tra forma e contenuto, per modo da ottenere un'espressione verbale che chiarisce dal profondo ogni cosa, cioè ha una chiarezza espressiva. Su questa chiarezza espressiva dei cappadoci ancora bisogna fermarsi, perché i cappadoci con la loro chiarezza espressiva, Sant'Agostino col quarto libro della dottrina cristiana, hanno affermato un principio che oggi incomincia ad essere più capito, cioè l'identità tra forma e contenuto. Non c'è una forma avulsa dal contenuto, sono una sola cosa. E negli ultimi anni questo l'aveva affermato molto bene Sant'Agostino e Gregorio Nazianzeno lo dimostra. Se non che dopo dal VI, VII secolo si è incominciato, dopo Cristo, a non avere più una esemplificazione di questa prosa. Il Medioevo altrettanto, poi siamo arrivati con l'umanesimo e il Rinascimento e hanno fatto la dicotomia. Una cosa è vera quando è scritta bene, se non è scritta bene non è vera. Allora sono venute le ultime risultanze, perché è un discorso molto lungo che si deve fare, e attraverso lo studio dei dialetti cosa si è visto? Che la forma espressiva, anche rozza, ha dei contenuti sublimi. E come la mettiamo la situazione? Anche Croce aveva detto che sì, ci possono, però è sempre la nobiltà della forma che ci può dire qualche cosa che è diversa dai contenuti. Noi ammiriamo la nobiltà della forma, ma i contenuti ci possono anche sfuggire. Quindi abbiamo fatto dei passi indietro sempre, mentre ora negli ultimi tempi si sta approfondendo la questione. Nell'addizione al linguaggio mitologico si ferma per generare nuove situazioni all'innesto della immagine pagana con l'invenzio attraverso i principi evangelici. Aggiornatissimo nelle varie tendenze culturali del tempo, coglie l'anima degli autori mediante la loro espressione verbale. Rettori grammatici che egli esalta non sono da prendere nel senso del vago che oggi loro si attribuisce col termine di sofista, bensì negli sforzi che fanno con le ricerche di lingua procedenti all'unisono con quelli del pensiero. Non può dimenticare l'ingegno e il metodo di Proeresio, che fu ad Atene suo maestro. Nessuno poteva gareggiare con lui nell'eloquenza che scuoteva il mondo. Morto Proeresio, Atene non risplende più. Ai giovani che accorrevano da ogni parte ad Atene per ascoltare la sua parola, ora non più accorreranno. Il Nazianzeno, avvertendo tale vuoto, si rivolge loro per esortare a fuggire la Cecropia e Atene. Proeresio era un cappadoce di origine armena che, mediante lo studio e la sua perspicacia, si impose alla cultura del suo tempo. Ne parla Eunapio. Il Nazianzeno gli era legato perché lo stimava e gli dedica l'epitaffio di cui si è parlato. Il Nazianzeno rimane affezionato per averli frequentati per motivi di scuola, gli uomini in cui ha riscontrato doti particolari di dottrina e di eloquio. Come per Proeresio, così per Tespesio. La morte di Tespesio lo lascia attonito per la fama che si era acquistato con i suoi grandi meriti. Ogni epitaffio è da approfondire nei suoi legami o espliciti, come quelli già visti o appena accennati, È il caso di Basso, padre di Carterio. Poco si sa di lui, nacque in Cappadocia e morì lontano dalla patria, ucciso da una banda di ladri. Seguiva con molta fedeltà gli insegnamenti del Cristo e rimase famoso per pietà e dottrina. Aveva operato moltissimo, rivolgendosi con tutta l'anima al Verbo incarnato, innanzi Anzino gli era assai devoto e il suo ricordo, dice, sarà in peritura. Seppure sarà racchiuso nella tomba col padre, sarà unito a Basso e a Carterio per sempre. Carterio, in vero, aveva guidato la sua giovinezza, rimanendo il timone della sua vita. Un altro personaggio al quale si sentiva spiritualmente legato era Eladio, che aveva gli occhi rivolti al cielo e per nulla si preoccupava della terra. E cerchiamo proprio l'ultima paginetta. Ho cercato di penetrare la poesia epitafica di Don Zanzino leggendo attraverso la sua anima. Non mi sono dilungato a sottolineare gli elementi che a Zanzino stesso sembravano di scarso rilievo. Questioni di erudizione superflua l'avrebbero urtato. Egli, in vero, preferisce, dopo aver detto con brevitas l'essenziale, il silenzio compagno dell'invisibile nella contemplazione. Egli vorrebbe quasi scomparire per dare spazio alla nostra unione con lo Spirito Santo e quindi al Padre e al Verbo incarnato. E il suo metodo teologico, quello di aprire davanti i grandi misteri e di far riflettere. Don Zanzino non definisce e non assiomatizza mai nulla. Dice cose reali che possiamo solo avvertire nei richiami dal nostro profondo, senza i quali la sua poesia non parla. Sensibile alle aspirazioni dei fedeli nella sopravvivenza oltre tombale, le soffre e le alimenta. Per lui Cristo è risorto e noi pure risorgeremo, senza rispondere alle domande del come, del dove e del quando. Egli collega il problema della resurrezione dei morti, dei nostri corpi, al principio di energia ognora presente alla sua intelligenza. Qui la sua presa per comunicare quando di più alto e nobile all'uomo che punta alla meta finale. Noi parliamo sempre di resurrezione, ecco. Il problema della resurrezione ai padri era sempre vivo e presente. E prendevano esempi che il popolo poteva, diciamo, toccare con mano, le stagioni che si rinnovano. Però stiamo attenti che si avevano una piena coscienza della resurrezione come dovrà essere. Il Nisseno parla in un frammento che è stato trovato nel 1928 della materia come energia, cioè esistono delle energie che noi non possiamo vedere, ci sfuggono, non, come del resto anche oggi noi stiamo qui. Tutte le onde ci attraversano, se abbiamo un apparecchio che le trasmette o le riceve, noi vediamo tutto il mondo che ci passa davanti. Questa riflessione, non che avessero capito, era una riflessione che portavano con molta costanza. Quindi l'energia, esse avevano, i padri, specialmente i capaci, erano molto acuti, in particolare Gregorio di Nissa, che per alcune sue osservazioni diceva, insomma, vedeva gli uccelli che volano, dice non è che volano per il miracolo, volano perché, come dire, distruggono le forze della resistenza. E allora ci sono sempre questi accenni che noi dovremmo cercare un po' di approfondire. Siccome oggi le scienze esatte sono state divise, sono divise le scienze orali, ognuno va per conto suo, quindi non si può immaginare mai che i padri della Chiesa avessero studiato questi problemi o avessero capito questi problemi. Per loro era unitaria la scienza, come è unitaria? Noi dividiamo tutto. E allora non riusciamo più a capire neanche quelle intuizioni o anche discorsi continui. Gli studiosi, i padri, erano studiosi anche di Archimede. C'è tutta una fortuna archimedea nei padri della Chiesa. Perché, uno si domanda? Comunque, non vogliamo rubare altro tempo. Il Zanzino è molto concentrato. come teologo e come poeta. La sua linea è sempre unitaria e non si incrina. Nell'epitafio sembra che voglia dire a tutti: state certi, ognuno sarà nell'aldilà quello che si è portato del suo intimo dalla vita terrena. E la grande energia, la vera risultante di tutta la nostra persona, che nella sua fede, nei suoi intenti e nelle sue tensioni sopravviverà. Scusatemi se siamo stati un po', siamo stati un po' lunghi. Acquarelli si è assunto un compito particolarmente difficile e anche non immediatamente gratificante, questo genere letterario degli epitafi, credo che è molto lontano dalla nostra sensibilità odierna, eppure occorre veramente fare uno sforzo per coglierne, direi, il linguaggio. Qui c'è di mezzo veramente un problema ermeneutico non indifferente, e per penetrarlo, per apprezzarlo in ciò che esso vale, questo problema del rapporto tra la forma e i contenuti e di questo mondo spirituale, per noi per un verso così lontano e per l'altro così necessario, di una visione globale, sintetica di tutta la realtà creata, il Weltbild, l'immagine del mondo che questi uomini avevano, mi pare si riflette qui dentro abbastanza bene, e siamo grati al professor Quacquarelli che ci ha aiutati, ci ha messi un po' sulla strada, ecco, credo che la strada sia ancora difficile e per i più semplici di noi, tra cui io mi allineo tra i primi, no, è certamente non facile da percorrere, ma tanto per dire quanto mi stimola l'ultima riflessione ancora, per esempio, io sento nel nostro contesto di un istituto di scienze religiose da più parti e in varie occasioni, da varie provenienze, lo stimolo a prendere più in considerazione il mondo delle scienze naturali, della fisica moderna e così via, in rapporto alla religione, perché queste scienze esatte si sono tagliate fuori e nella nostra generazione vivono in una loro sfera quasi impenetrabile. Ecco, gradisco assai l'incitamento e anche la reminiscenza, vero, a un modo di pensare e a un Weltbild che in qualche maniera saremmo anche chiamati a recuperare. Dopo forse nel colloquio ho anche qualche domanda a parte, ma a questo punto io chiedo se invece tra voi c'è chi vuole porre qualche domanda in questa complessa materia, vero, degli epitafi che sono stati descritti. Prendevo spunto a quello che ha detto ultimamente, che c'è la tendenza a voler, come dire, approfondire le scienze, diciamo in genere le scienze naturali, come lei vuole, oggi, per capire molti problemi, ed è una tendenza fortissima. Se noi notiamo le ultime risultanze dei grandi fisici, Jaski, che è uno storico della fisica, ma fisica anch'esso, in America, ha scritto: la ricerca di Dio e la ricerca dell'infinito. Tsikiki, che noi tutti conosciamo, c'ha un altro libro, La ricerca dell'infinito. L'infinito come scienza divina. Cioè, ora si pongono su una, mentre ieri gli scienziati negavano un po', mi sto occupando proprio per via di conoscere un po' più da vicino i padri, perché noi ci rimestiamo sempre le solite tesi, le solite dottrine, perché poi non hanno nessuna consistenza, mentre c'è tutto un mondo ancora da scoprire attraverso i padri. E allora essi si sono posti un problema, gli studiosi di ora, matematici, fisici, dice: ma cos'è la ricerca di Dio? Se la ricerca di Dio ci porta all'infinito, e che noi alle volte non possiamo dire, ma è all'infinito, è come la ricerca della scienza stessa, la scienza è all'infinito, e allora noi dobbiamo capirci di più dentro. C'è tutta una tendenza degli studiosi di ricerca scientifica, quella vera, verso questo problema. L'infinito cos'è? Quindi la ricerca è la ricerca di Dio. Dio l'infinito, la scienza l'infinito. E allora ecco come ritornano molti problemi a quello che è stato quello dei padri, quello che sarà per sempre, cioè la unità della scienza perché l'uomo possa capire qualche cosa. Noi abbiamo diviso. C'è tutta una cultura settoriale e in questa settorialità noi ci siamo perduti. E allora anche il problema, accennarlo solo, diventa molto difficile, incomprensibile. Ognuno, quello che ha capito, questa è scienza e la scienza è tutta per me. Che cosa poi? Una parte settoriale che si studia, questa è scienza per me. È venuto fuori un grosso discorso. Io non c'ero perché ero in Puglia per il consorzio di esegesi. C'è stata l'inaugurazione dell'anno accademico patristico e allora si è voluto parlare su quella che era la istruzione venuta dalla congregazione dei seminari. Istruzione che può avere anche i suoi difetti, può avere i suoi meriti, cioè, ma nessuno entrava in merito. Fu un padre benedettino che mise in discussione quella istruzione, cioè è un po' incompleta. E allora venne fuori il discorso. Noi stiamo qui, insegniamo in questo istituto. Cosa insegniamo? Cos'è l'istituto patristico? E così via. Si accese una grande discussione e allora uno diceva: la patristica è teologia. Un altro diceva: la patristica è la patristica, io studio la patristica e quella io studio, questa è la materia che io studio, è un grosso studioso. E molti ci domandavano: ma cosa significa studiare? E furono gli allievi, un allievo chiese: ma cos'è la patristica per lei, professore? Dice: per me la patristica è la patristica, io quella studio. Ma che cosa studi? E allora come si fa a vedere anche le relazioni tra le altre scienze, perché la patristica è anche correlata alle altre. Venne fuori una confusione. Il vescovo di Sardo, tanto bravo, il nostro amico Meloni, non capiva più. Padre della Potterie, che stava lì, che era stato uno dei relatori, lo stesso, si smarrirono tutti. Allora Simonetti, che aveva provocato il pasticcio, allora cosa viene fuori? Dice, viene fuori il discorso che lui era stanco e che quindi oramai dobbiamo chiudere, e lasciò una immagine molto confusa. La sera stessa, la serata, fu confusa perché padre della Potterie non si rendeva conto, padre l'altro Cruzello, lo stesso, tutti, venne fuori una confusione. Quando si vuole determinare una questione, e allora si ha la confusione enorme. Allora andiamo avanti. Qualche altro, prendo le veci di signor Roger che è uscito, qualche altro intervento? Padre Spito, benissimo. Sarà opportuno in 5 minuti terminare, no, però io credo. Vabbè, perché... quello che sia. Abbiamo parlato del Quattarelli. Mi sono occupato spesso delle icone, no? Sì. E si sa che sono quelli che vanno sempre al significato originale. Ci sono altri che dicono: me ne fischio, oggi il significato è questo qui. qualche altro intervento? Va bene, allora passiamo. Non c'è, no, guarda, il tesoro che può dire tanto di queste cose. Ma se ha da dire, può dirlo. Con calma, se non diciamo che non abbiamo tempo, sono le robe che ci sono. Prego. Allora, se non c'è nessun altro intervento, possiamo considerare chiusa questa prima parte della discussione, dei lavori di oggi. Ecco. Io volevo archivare. Come? Volevo sapere da loro tante cose. Ma e se non le dicono, non le possiamo inventare. Ecco. Infatti più volte abbiamo invitato a intervenire, a presentare domande, obiezioni, eccetera. Non è che voglio togliere la parola stiamo incitando. Va bene, allora arrivederci oggi pomeriggio alle 3.